Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. I bambini dati in affido a genitori adottivi sono spesso costretti a lasciare la famiglia che li aveva accolti per passare ad altre famiglie o per tornare negli istituti per orfani. Contro la filosofia dei genitori usa e getta che rende precaria la vita dei minori, è partita una raccolta firme per modificare la legge sull'affido temporaneo. Ne parla Gian Antonio Stella in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera. Ma vengono prima, per la legge, i diritti dei bambini abbandonati o quelli degli aspiranti genitori? È quello che ti domandi leggendo sul sito dell'associazione La Gabbianella la testimonianza di Claudio e Cinzia, che, come scrivono, sono stati trafitti a tradimento da una brutta storia di affido. Al centro di questa storia c'è una piccola, Misha, dalla vita travagliata. I primi 2 mesi disastrosi coi genitori naturali, poi in ospedale per denutrizione, poi in parcheggio d'urgenza presso una famiglia, finché, al 6° mese, viene data in affido a Claudio e a sua moglie, coi quali resterà per 15 mesi, felici. A un certo punto, un giudice del Tribunale dei Minori, evidentemente informato di come sta crescendo la piccola, chiede ai due se abbiano pensato all'adozione. Claudio e Cinzia sanno di avere qualche anno in più rispetto a quelli previsti dalla legge per chi adotta figlioletti così piccoli. Ma il giudice spiega loro che si potrebbe procedere verso un'adozione speciale nominale. Neanche il tempo di sperarci e arriva la doccia fredda. Misha andrà in adozione a un'altra famiglia. I due non capiscono. Il pediatra si arrabbia quando lo informiamo. Dice che dobbiamo prendere un avvocato. Questa bimba ha già sofferto tanto nella sua breve vita. Ora ha raggiunto un equilibrio. Un ulteriore passaggio in un'altra famiglia sarebbe distruttivo. Dice che, se veramente le vogliamo bene, dobbiamo fare di tutto affinché Misha resti dov'è. Portando a sostegno varie testimonianze, cercano di spiegare al presidente del tribunale che la cosa non ha senso e potrebbe danneggiare la bimba. Risposta: vi ringraziamo per quello che avete fatto, l'adozione speciale è prevista in casi particolari, questa bambina ha migliori opportunità di vita, ci sono coppie che hanno una domanda di adozione da 3 anni, quindi con più diritti di voi. Ma come? I diritti di una coppia che desidera un figlio, per quanto diritti legittimi, vengono prima di quelli della creatura che è in ballo? Per carità, magari l'inserimento della piccola si rivelerà alla lunga positivo. L'inizio a leggere Claudio e Cinzia è stato traumatico, ma il tema resta. Andava privilegiato il bene della bambina o i diritti degli aspiranti genitori? E non sarebbe opportuno un po' di buonsenso in casi come questi per evitare questi traumi ai piccoli? Il guaio è che di casi così ce ne sono diversi. Prendiamo quello di Mattias, raccontato da Daniela Assembri. Durante le feste di Natale del 2005 sono passata dagli uffici dei servizi sociali del comune della mia città e ho chiesto se c'era un bambino che avesse bisogno del calore di una casa per Natale. Avevo già avuto 2 esperienze di affido e in quegli uffici mi conoscevano. L'assistente sociale mi ha subito proposto un bambino nato da pochi giorni e ancora ricoverato nel reparto maternità dell'ospedale. La giovane famiglia aveva dei problemi. Ho detto sì con entusiasmo. Mi avrebbero fatto sapere. A metà gennaio 2006 mi confermano l'affido. E così 2 operatrici dell'ufficio minori mi portano a casa Mattias, avvolto in una copertina. Mi danno alcuni ragguagli, sul latte e sugli incontri da fare con i genitori, e se ne vanno. Da quel momento, per 2 anni abbondanti, i 2 anni fondamentali per la vita di un bambino, quelli in cui impara a camminare, parlare, mangiare, giocare, lo Stato mostra di fidarsi ciecamente della donna, che è single e vive da sola, senza un marito o un compagno. Una delega piena, totale. Le assistenti sociali non sono mai venute a casa mia, non hanno mai visto l'ambiente di Mattias, il suo gatto, i suoi giochi, le persone che mi hanno aiutato ad allevarlo, in particolare mio fratello, o che lo hanno tenuto con tanta attenzione e affetto, i miei cari amici, finché il giudice decide che il bimbo parcheggiato dalla signora Daniela la quale per lui ha fatto mille rinunce adattandosi all'incertezza burocratica. Gli compro già il lettino o basterà la carrozzina, e il box e il girello e un seggiolino più grande per l'auto e un nuovo passeggino e le vacanze e il mio ritorno al lavoro dopo la maternità e l'eventuale iscrizione all'asilo. Va dato in adozione. A Daniela? Neanche a parlarne. Mattias le starà anche affezionato e lei si sarà spesa l'anima per essere una buona mamma. Ma, santo cielo, non è sposata, non ha un marito. Per lo Stato va bene come parcheggiatrice, non di più. Ha tirato su lei il bambino e passato lei le notti in bianco quando era malato e gli ha insegnato lei a dire mamma e gli ha mostrato lei la prima volta la luna. Stia al suo posto. E poi tutte quelle domande alle assistenti sociali. Cosa sarà del bambino? Dove andrà? La nuova mamma e il nuovo papà sono a posto? Gli vorranno bene? Diamine. Non son mica fatti suoi. Conclusione, il piccolo viene tolto a quella che fino a quel momento è stata sua mamma, praticamente senza un passaggio delle consegne. Non ho mai incontrato la famiglia adottiva. Pare che sia stata la famiglia stessa a non volermi conoscere. È giusto così? Vale per Daniela la single. Vale per famiglie tradizionali in senso pieno. Come quella, racconta il sito della Gabbianella, che accolse la piccola A e i suoi fratellini. Una coppia con ben 5 figli naturali, che per 11 anni ha accolto in affidamento dei bambini, accompagnandoli poi verso altre famiglie adottive o nella loro stessa famiglia naturale. Anche questi genitori usa e getta, utilizzati dallo Stato per parcheggiare i 3 fratellini e poi scartati per l'adozione di A, affidata loro quando aveva meno di 2 mesi, nonostante il parere contrario del tutore dei minori e del neuropsichiatra, entrambi schierati perché la bimba non venisse spostata dall'ambiente in cui era cresciuta. Per questo, la Gabbianella, presieduta da Carla Forcolin, autrice di più libri sul tema, uno per tutti, Io non posso proteggerti, ha avviato una raccolta di firme per chiedere ai parlamentari un ritocco, messo a punto dall'avvocato Lucrezia Mollica, alla legge 184 dell'83 che regola la materia. Qualora l'affidamento di un minore si risolva in un'adozione a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria. Va quindi favorita la permanenza del bambino nella famiglia in cui egli già si trova. Ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva. Buon senso. Solo buon senso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella, Bambini prima affidati e poi tolti, l'Italia dei genitori usa e getta, dal Corriere della Sera del 19 aprile. Grazie all'intervento del governo italiano, i 3 volontari di Emergency sono stati liberati e scagionati da ogni accusa, ma sul loro operato rimangono ancora dei dubbi. In un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista, pensando a Gino Strada, rimpiange la figura di Albert Schweitzer, medico missionario e premio Nobel per la pace nel 1952. Magari ci fosse un altro Albert Schweitzer. Magari si reincarnasse quella figura di filantropo autentico, eroe dell'etica e dell'altruismo che abbandonò l'agiatezza europea, gli amati studi di teologia, la passione per la musica, per consacrare la propria esistenza alla costruzione di un ospedale a Lambaréné, nel Gabon, per strappare migliaia di uomini, donne e bambini miserabili dalle piaghe della lebbra, della malaria, della tubercolosi, dell'elefantiasi, della dissenteria, della febbre gialla, dell'ulcera tropicale, del vaiolo. Magari ci fosse un altro Schweitzer capace di tornare in Africa con tenacia e umiltà per sfidare con il suo esempio le potenze della politica europea che con la prima guerra mondiale avevano preso a boicottare il suo ospedale africano. Se ci fosse un nuovo Schweitzer, non sarebbe arrogante, prigioniero di una violenza verbale incontenibile, incapace di distinguere le buone dalle cattive ragioni per via di una furia ideologica manichea e totalizzante. Non scenderebbe a patti con un genocida per la costruzione di un nuovo ospedale a Khartoum e non assolverebbe un macellaio come al-Bashir, spacciando e mentendo per un'invenzione totale il massacro pianificato di centinaia di migliaia di innocenti nel Darfur. Non darebbe del nazista al presidente degli Stati Uniti dopo aver usato un trattamento molto più indulgente con i talebani adusi alla fustigazione delle donne che pretendono di andare a scuola allo sgozzamento degli infedeli colpevoli solo di consumare alcolici. Non intimerebbe di andare fuori dei coglioni ai responsabili dei servizi militari italiani impegnati in Afghanistan, a rischio della loro vita. Se ci fosse un nuovo Schweitzer, non pretenderebbe di sventolare il monopolio della bontà, accecato da un esclusivismo ingeneroso nei confronti dei tanti volontari che si sacrificano in silenzio. Se ci fosse un nuovo Schweitzer, forse assomiglierebbe di più ad associazioni benemerite come Médecins Sans Frontières. Lavorerebbe magari nel disinteresse del mondo e dei media, con un'associazione meravigliosa come Smile Again, che in Pakistan ricostruisce il volto delle ragazze devastate dall'acido che i fondamentalisti gettano loro addosso senza pietà. O si chiamerebbe Alberto Cairo, un medico che si massacra di lavoro per salvare vite umane in Afghanistan, ma che, chissà perché o forse si sa il perché, non viene paragonato al vecchio dottor Schweitzer e non viene incluso nell'elenco, peraltro non sterminato, degli italiani di cui dovremmo andare orgogliosi. Se ci fosse un nuovo Albert Schweitzer, non mischierebbe il verbo umanitario con la grossolana partigianeria politica, con la veemenza militante di chi pretende di incarnare ogni virtù, scaricando all'inferno chiunque osi dissentire da lui. Per questo ci manca un nuovo dottor Schweitzer. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista «Quanto ci manca un vero dottor Schweitzer» dal Corriere della Sera del 19 aprile. Letture di Radio 24. Il glutammato fa male? Meglio lo zucchero bianco o quello di canna? È vero o falso che gli OGM sono cancerogeni? Ogni giorno i mezzi di informazione ci mettono in guardia sui pericoli della tavola, dicendo tutto il contrario di tutto. A chi bisogna credere? È la domanda a cui cerca di rispondere Dario Bressanini, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università dell'Insubria, nel suo libro Pane e bugie, la verità su ciò che mangiamo. Una delle questioni più controverse quando si parla di buona o cattiva alimentazione è probabilmente quella che riguarda il mito dei cibi biologici. Gli alimenti biologici sono più nutrienti? Per rispondere a questa domanda sono state effettuate centinaia di ricerche. Purtroppo questo è uno dei casi in cui la selezione degli articoli può dare risultati differenti. Alcune rassegne concludevano che gli alimenti biologici hanno un contenuto superiore di alcuni nutrienti, altri invece non riscontravano differenze significative. Per cercare di dirimere la questione, la Food Standard Agency, l'agenzia britannica per la sicurezza alimentare, ha commissionato una rassegna sistematica sull'argomento a un istituto scientifico, la Nutrition and Public Health Intervention Research Unit della prestigiosa London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lo scopo della ricerca era vagliare la letteratura sull'argomento e confrontare la composizione di alimenti prodotti in modo convenzionale o biologico, fornendo un rapporto aggiornato, oggettivo e indipendente. La rassegna è stata completata nel luglio 2009 e ha generato un terremoto nel mondo dell'agricoltura biologica. Nessuno aveva mai effettuato prima una rassegna sistematica sull'argomento. Lo studio era dedicato agli aspetti nutrizionali, quindi ha esplicitamente escluso tutte quelle ricerche volte a indagare l'effetto sull'ambiente dell'agricoltura biologica o a rilevare tracce di pesticidi e fungicidi su frutta e verdura. Gli scienziati incaricati dall'FSA hanno cercato su tre grandi database di pubblicazioni scientifiche tutti gli articoli pubblicati dal 1958 al febbraio 2008, che confrontavano le sostanze nutrienti nei cibi biologici e convenzionali. Confrontando tutti i dati disponibili, la rassegna concludeva che per 16 delle 23 categorie di sostanze analizzate non ci sono prove che esista una differenza tra i vegetali prodotti in modo biologico e quelli ottenuti in modo convenzionale. Questi ultimi hanno mostrato livelli significativamente più alti di azoto rispetto ai prodotti biologici. Nei prodotti biologici, invece, sono stati riscontrati livelli significativamente più alti di zuccheri, magnesio, zinco, materia secca, composti fenolici e flavonoidi rispetto ai prodotti convenzionali. Quindi moltissimi nutrienti, tra cui la vitamina C, il calcio e il potassio, sono statisticamente presenti in misura simile nelle due tipologie di prodotti e non pare proprio che si possa parlare di superiorità. Che i contenuti di azoto siano diversi non stupisce troppo, visto che si tratta di un elemento presente nei fertilizzanti. Non potendo utilizzare prodotti di sintesi, l'agricoltura biologica è meno efficiente nel fornire alle piante l'azoto indispensabile per la costruzione delle proteine. È noto, ad esempio, che il frumento coltivato biologicamente soffra di un minore contenuto di proteine del glutine a causa della minore concimazione, e questo può essere un problema per la panificazione. D'altra parte, la maggiore acidità dei prodotti biologici, dovuta probabilmente al fatto che i vegetali vengono raccolti a uno stadio più avanzato di maturazione, può significare alimenti più gustosi. Anche nei prodotti di origine animale, carne, uova, latte e così via, non sono state riscontrate differenze significative nelle categorie di nutrienti analizzate, se si esclude il fatto che i prodotti animali da allevamenti biologici hanno livelli significativamente più alti di acidi grassi poliinsaturi, acidi grassi trans e acidi grassi non specificati rispetto ai prodotti provenienti da animali allevati in modo convenzionale. La cosa curiosa è che se si includono tutti gli articoli, indipendentemente dalla qualità, risulta che i prodotti biologici da animali hanno un contenuto più alto di grassi trans, su cui c'è un allarme ormai in tutto il mondo per le loro conseguenze sull'insorgenza delle malattie cardiovascolari. Le differenze rilevate sono piccole e quasi sicuramente non comportano conseguenze sulla salute. Ovviamente sui giornali ci si guarda bene dal menzionarle, perché metterebbero in cattiva luce i prodotti biologici. In realtà, come è accaduto per i vegetali, se si includono solo i lavori a più alta qualità, anche queste differenze scompaiono. E l'unica differenza significativa che rimane è il contenuto di azoto. Vediamo dunque le conclusioni della rassegna. Per la maggioranza dei nutrienti esaminati non è stata rilevata una differenza nel contenuto di nutrienti e altre sostanze tra prodotti biologici e convenzionali, suggerendo che le due categorie siano largamente confrontabili. Le differenze rilevate nel contenuto di alcuni nutrienti e altre sostanze sono biologicamente plausibili e molto probabilmente correlate alle differenze di gestione delle colture e degli animali e alla qualità del suolo. Non ci sono prove che una dieta più ricca di quelle sostanze che si trovano in quantità superiore nei prodotti biologici in confronto a quelli convenzionali possa portare benefici a individui che consumano una normale dieta variata, ed è perciò improbabile che queste differenze nel contenuto di nutrienti siano rilevanti per la salute dei consumatori. Insomma, siccome nella scienza l'onere della prova sta in chi fa delle affermazioni, se qualcuno sostiene che il cibo biologico è più nutriente, lo deve dimostrare. E quel che emerge dalle ricerche condotte sino ad ora è che questa dimostrazione non è stata trovata. Come sono stati accolti questi studi in Italia? C'è chi, come il quotidiano La Stampa, ha sparato un titolo a effetto come «Il biologico fa bene solo a chi lo produce», che però non riassume in modo fedele i risultati della rassegna. C'è chi ha reagito sostenendo che fosse riduttivo andare a cercare solo i nutrienti. Sarà pure riduttivo, ma è inutile far finta di cadere dal pero. Per anni i consumatori sono stati bombardati con messaggi sulla presunta superiorità nutrizionale dei cibi biologici, quindi era ora che qualcuno andasse a verificare in modo rigoroso se questo era vero. In ogni caso, ben vengano ovviamente le future rassegne sistematiche su altri aspetti, come l'influenza dei residui di pesticidi sulla salute dei consumatori. Ma ricordatevi degli studi di Bruce Ames sui pesticidi naturali presenti nel cibo. C'è chi l'ha buttata sull'economico. Il comparto bio è in forte crescita. In questo modo lo si danneggia. Forse. E allora? Da quando in qua la correttezza scientifica si basa sui dati di vendita? Se cerchi di convincere il consumatore a comprare i tuoi prodotti basandoti su messaggi scientificamente non dimostrati, ti devi aspettare che prima o poi qualcuno ne verifichi la veridicità. Anche il mercato degli oroscopi e quello dell'omeopatia sono in forte crescita. Forse che uno scienziato non dovrebbe dire nulla che possa danneggiare un settore? Perché non ribaltiamo la prospettiva e diciamo invece che se si fa credere al consumatore che ci sono dei benefici, ma questi non sono affatto dimostrati dalla ricerca scientifica, si danneggia il consumatore. C'è poi chi, come Carlo Petrini di Slow Food, la butta sull'emotivo. Udite, udite! Un pomodoro bio non avrebbe più vitamine di un pomodoro convenzionale. E allora? Anche ammesso fosse vero, e ci sono fiori di ricerche a provare il contrario, pensano davvero che i consumatori scelgono il bio solo perché credono abbia più vitamine? Non li sfiora il pensiero che chi sceglie di consumare o produrre bio ha una visione un poco più complessa e ampia del cibo? Non si vive di sole vitamine, si vive di rispetto dei ritmi di maturazione, di tutela della fertilità dei terreni, di paesaggi custoditi, di bellezza pur nello sviluppo, di tessuto sociale, di bontà organolettica, di relazioni umane, come quelle che si instaurano in un mercato di prossimità. Si vive di assenza di residui chimici, si vive di cibo raccolto quando è maturo e prodotto nei territori vocati, si vive di cibo spostato il meno possibile, si vive di cibo vero e si vive di cibo trasparente. Una delle ragioni principali per cui i consumatori scelgono il bio è che sanno cosa è. Diffido sempre di chi vuole convincere non con argomenti razionali ma puntando sulle emozioni. Relazioni umane, territori vocati, paesaggi custoditi, bellezza, bontà, assenza di residui chimici. Queste per me sono solo belle parole di un esercizio retorico. Rispettabili parole romantiche, ma che non mi seducono. Parlano al mio cuore, forse, ma non al mio cervello. Qui ci si dimentica sempre che i soldi non si creano dal nulla. Lo so, è una cosa sgradevole da dire, ma ogni tanto è bene ricordarlo. I cibi biologici sono mediamente più costosi. Troppo spesso gli scienziati si perdono dietro ai dettagli, senza prendere in considerazione gli effetti economici su larga scala. Supponiamo che da un giorno all'altro tutti gli acquisti di frutta e verdura in Italia si trasferiscano dai prodotti convenzionali a quelli biologici. Poiché questi ultimi costano mediamente di più di quelli convenzionali, per la stessa quantità di denaro speso dalle famiglie italiane avremo un consumo totale inferiore di frutta e verdura e di conseguenza una minore assunzione di tutti quei nutrienti di cui abbiamo discusso. Paradossale, vero? E per assumere la stessa quantità di nutrienti dovremo convincere tutte le famiglie italiane a spendere di più. Io me lo posso permettere. E ogni tanto compro frutta e verdura biologica se noto una superiorità organolettica per cui valga la pena di pagare di più. Altre volte il mio palato non rileva alcuna differenza o nota addirittura un gusto inferiore. E quindi mi oriento diversamente. In altre parole, acquisto i prodotti se li ritengo buoni e con un buon rapporto gusto-prezzo, indipendentemente da come sono stati prodotti. Dal punto di vista salutistico è molto più importante consumare molta frutta e verdura, possibilmente fresca, che non preoccuparsi della provenienza e dei metodi di coltivazione. E sinceramente mi sembra difficile convincere milioni di famiglie italiane a sborsare di più per le mele o i limoni biologici, parlando solo di paesaggi custoditi e di tessuto sociale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Dario Bressanini, Pane e bugie, la verità su ciò che mangiamo. Chiare Lettere Editore, 304 pagine, €13,60.